un altro buio dietro al buio che man mano si dissesta. Non c'è grazia nel dolore che mi resta. Sono un uragano in fiamme, sono il ferro, la tempesta, sono la voce che ti grida in testa che non finirà qua. Sono l'essenza dell'uomo, sono la libertà. Sono la goccia che fa traboccare l'ultimo istante. Sono una vita sognata, sono la morte sognante di chi un giorno ha combattuto questa oscurità.